La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon inizio di settimana post Capodanno oppure buon ponte ancora verso la Befana a seconda di come siate organizzati. Un saluto naturalmente a chi invece lavora sempre e grazie per ascoltarci in diretta in podcast qui alla versione di Oscar. Vi dico subito l'argomento del giorno in maniera da consentirvi di telefonare all'800240024 per le opinioni con gli sms 349 238 66 66. Allora, la notizia parte dall'aggiornamento dei cambi di casacca dei parlamentari eletti nel corso della attuale legislatura. E in poco più di 2 anni e mezzo siamo a un record, cioè parlamentari rispetto ai partiti e quindi poi ai gruppi in cui sono stati eletti presentandosi nelle liste elettorali e come tali quindi scelti dagli elettori, dai cittadini. Ebbene, siamo a un record perché a fine 2015 ci sono stati, dall'inizio di questa legislatura, la 17ª, la bellezza di 325 cambi di gruppo. Questi 325 cambi di gruppo in 2 anni e mezzo sono stati compiuti da 246 parlamentari tra deputati e senatori, quindi stiamo parlando di una cifra incredibilmente elevata e siamo a metà della legislatura, per così dire. Siamo passati da una media annuale della famigerata, odiata Prima Repubblica in cui c'erano in media 12 cambi di gruppo di parlamentari l'anno, nei 20 più anni della Seconda Repubblica siamo arrivati a una media di 55 cambi di gruppo l'anno, adesso siamo a questo record clamoroso di oltre 160 cambi di gruppo l'anno praticamente, e vi ripeto, i parlamentari interessati sono la bellezza di 246. Allora, rispetto a questo fenomeno, un fenomeno che ricade in pieno nel cosiddetto trasformismo, la vecchia formula che da Agostino De Pretis divenne una delle sintesi della crisi della democrazia parlamentare italiana e che poi sfociò nella crisi dell'Italia liberale, Giolitti, poi nel fascismo, la domanda che vi faccio è questa. Sapete che in Costituzione c'è il cosiddetto, c'è una garanzia per i parlamentari che vieta il vincolo di mandato, quindi in grazie a questa tutela i parlamentari sono effettivamente oggi costituzionalmente tutelati dalla piena libertà di cambiare iscrizione a gruppo politico, cambiare partito, cambiare, entrare in una coalizione di governo se si è stati eletti all'opposizione o viceversa. Detto questo, poiché le norme sono fatte anche per essere cambiate nel rispetto delle norme stesse, voi pensate che questo sia un male di fronte al quale bisognerebbe cambiare le regole? E a quel punto, per esempio, piena libertà di cambiare idea, però fai la cortesia di dimettermi e fare scattare il successivo degli eletti del tuo partito alle elezioni, oppure, se si trattasse di un collegio uninominale puro, di procedere a nuove elezioni nel collegio, cosa che in Italia oggi non è, come sapete, oppure siete invece dell'idea che resta il divieto del vincolo di mandato nella forma più ferrea una garanzia piena che bisogna continuare ad adottare? Ma in questo caso è proprio giusto non vedere che si tratta di una crisi corrosiva dei sistemi dei partiti che non regge, della certezza dei numeri in Parlamento e così via? I diversi processi aperti nel tempo per compravendita di voti, l'evoluzione della legislazione in materia, contratti anche a volte discutibili a dire la verità, dal mio punto di vista, e insegna che quella è proprio una classica espressione della crisi politica e istituzionale. Insomma, voi come la pensate se siete elettori di un collegio, di una circoscrizione nella quale il parlamentare che avete eletto ve lo siete ritrovati a cambiare una o più volte casacca rispetto al voto che gli avete dato. È proprio giusto che possiate semplicemente come elettori assistere senza dire nulla, perché lui ha la piena libertà, ma voi un voto ogni X anni potete dare, e quindi a quel punto ve lo siete giocati. Ecco, diteci come la pensate su questo argomento. Sullo sfondo, ovviamente, c'è l'avvento futuro prossimo della legge elettorale, l'Italicum, che Renzi considera un esempio straordinario di riforma efficace alla luce degli andamenti elettorali degli altri paesi, dalla Francia alla Spagna e così via. Ricordo a tutti che il sistema elettorale dell'Italicum avrà 100 capolista bloccati, scelti dai segretari dei partiti, e per avere la garanzia che quei 100 siano proprio scelti dai segretari dei partiti, si consentirà ai candidati anche di presentarsi nella bellezza di 10 collegi plurimi come capolista bloccato, una cosa che io veramente non trovo aggettivi, ecco, per definire. Avremo un sistema nel quale chi al primo turno prende una percentuale comunque ragionevolmente elevata di voti si becca 340 deputati. Ricordate che il Senato non dà più la fiducia ai governi. Dopodiché, se quella percentuale non si raggiunge, si va al ballottaggio prima lista contro seconda lista, e a quel punto chi vince si becca comunque i 340. Oltre ai 100 capolista bloccati, per il resto valgono invece le preferenze nelle circoscrizioni. Quindi questo è più o meno il sistema che abbiamo, un sistema in cui, dice Renzi, l'aspetto positivo è che si saprà la sera stessa, oppure alla sera del ballottaggio, chi avrà vinto. Non si resterà appesi come in Spagna a quattro partiti che rendono impossibile la formazione di un governo. Con ogni probabilità in Spagna, secondo me, si torna a votare, e se avete letto i giornali oggi avete visto che la stessa sorte capita in Catalogna, perché la sinistra estrema ha negato il sostegno a Arturo Massi, il moderato alla testa dell'indipendentismo catalano, che però senza la sinistra estrema non poteva formare un governo catalano. Quindi con ogni possibile probabilità si torna a votare sia in Catalogna che in Spagna. Allora, questo è l'argomento della puntata di oggi. Per capirne di più abbiamo convocato un esperto, cioè un costituzionalista, per capire bene se questo principio della difesa ferrea della libertà di cambiare idea dei parlamentari, da istituto di garanzia che era nato negli ordinamenti costituzionali per impedire che ci fossero, per così dire, atteggiamenti impropri che piegassero la volontà dei parlamentari all'obbedienza di coalizione o di partito, non sia diventato invece qualche cosa da ripensare profondamente. E soprattutto, come funziona davvero in tutti gli altri paesi? Tutti gli altri paesi prevedono la totale libertà, come da noi in 2 anni e mezzo, 246 parlamentari di cambiare idea una o più volte e fermando la cosa lì, oppure ci sono delle misure diverse per contenere questo diritto alla libertà di opinione, coniugandole anche con il rispetto alla volontà degli elettori? In quali casi, in altri ordinamenti, per esempio, è previsto il cosiddetto recall, cioè la possibilità che gli elettori richiamino a un voto chi ricopre certe cariche nell'esecutivo o parlamentari o presidenziali negli ordinamenti diretti? Ecco, allora, tutte queste domande, compreso un giudizio sulla prossima riforma elettorale in arrivo, mentre voi ci telefonate per dire io vorrei che si rivotasse se il parlamentare cambia idea, oppure no, mi va benissimo che cambi idea, meglio libero piuttosto che mal influenzato, mentre voi ci telefonate, io vi presento l'ospite che ha accettato di darci un po' di dritte su questa materia, e cioè il professor Carlo Fusaro, che insegna diritto elettorale e parlamentare all'Università di Firenze. Buon pomeriggio e buon anno, professor Fusaro. Buon pomeriggio a Giannino, buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora, prima di entrare nel merito e di darci un po' di nozioni di diritto costituzionale comparato e parlamentare comparato, lei questa cifra, cioè 246 parlamentari coinvolti per 325 migrazioni tra gruppi, la considera una cosa frutto di libertà e quindi da accettare, oppure una patologia profonda che chiede cambiamenti di norme? Ti ringrazio per questa domanda, perché è quella fondamentale. Prima di tutto, è verissimo che nella cosiddetta Prima Repubblica i cambi erano infinitamente più rari. È vero però che in una legislatura, in particolare la quarta, quella in cui ci fu la scissione del Partito Socialista di Unità Proletaria dal Partito Socialista e poi l'unificazione con i socialdemocratici, i cambi di casacca furono in numero non identico ma comparabile a quelli di cui parli giustamente e che ci sono stati nella cosiddetta Seconda Repubblica, cioè all'incirca un 20%, ora parlo soprattutto della Camera dei Deputati, della quale ho tutti i dati analitici e dettagliati. Allora, il senso di questa mia prima informazione è il seguente: nei momenti di grande movimento e di grande crisi del sistema dei partiti, questo fenomeno può essere contenuto, è un fenomeno a mio avviso criticabile, ma non può scandalizzare tanto. Perché in occasione di quella legislatura che il professor Fusaro ha ricordato, c'erano i germi di una scelta che poi fu un cambio molto profondo, perché si trattava per la famiglia, tra virgolette, socialista, di prendere in considerazione o meno la scelta di diventare una forza di governo, cioè formando il primo centro-sinistra a fianco alla Democrazia Cristiana. Allora, ti chiedo, mi permetto di darti del tu, perché certo, ci conosciamo con Giannino da 35 anni, ti chiedo 3 secondi per segnalare quattro elementi di questa legislatura che sono del tutto specifici. Primo, questa è una legislatura nata improvvisamente tripolare, in cui sono state, dopo infinite sofferenze, necessarie prima una larga, poi una piccola intesa. Sì. Questo ha fatto saltare un elemento fondamentale che effettivamente con la legge nuova dovrebbe invece essere evitato, e cioè ha fatto saltare la scelta di governo da parte degli elettori. Esatto. E rende anche difficile valutare uno degli aspetti che a mio avviso è veramente censurabile del comportamento di alcuni parlamentari. Non tanto se cambiano da un gruppo all'altro all'interno del gruppo, diciamo, dei gruppi di maggioranza, certo, o di quelli di opposizione. Questo è il punto. Se io voto uno che mi deve fare opposizione e me lo trovo al governo, o lo voto per fare governo e me lo ritrovo all'opposizione, questo è quello che secondo me è veramente da impedire. Primo punto. Secondo punto, in conseguenza di questi fatti, questa è la legislatura che ha conosciuto prima la crisi che è nato, dalla quale è nato l'NCD, cioè Alfano e i suoi, quindi uno smottamento primo da Forza Italia. Poi lo spappolamento di Forza Italia, che ha perduto Gruppo Fitto e infine Gruppo Verdini, per cui da 98 che erano si ritrovano oggi in 55. Terzo, ha avuto lo sfaldamento di Scelta Civica, il gruppo improvvidamente, dico io, ma insomma costituito da Monti all'inizio, cioè in vista delle elezioni, certo, con l'insuccesso, anche loro hanno prodotto smottamento. Soprattutto perché aveva scelto una terza via e allora questi sono andati o di qua o di là, quindi inevitabilmente cambiando campo, però ecco, cambiando campo fra centristi, diciamo, sì, si passa l'espressione un po' imprecisa. Ultimo elemento, lo stesso Movimento 5 Stelle sappiamo che ha prodotto un numero molto consistente di almeno il 20% di cambi. Ora, giornalisticamente di cracca, appunto, in realtà sono persone che sono state buttate fuori, che alcune invece nel senso sono andate effettivamente non avendo condiviso le scelte, insomma c'è di tutto. Quindi un primo punto è questo, a mio avviso: finché il sistema politico istituzionale non si ristabilizza un pochino, noi questo problema l'avremo. Detto questo, si può poi passare ai possibili rimedi in Italia e a quello che si fa all'estero, come tu mi chiedevi prima. Ma io partirei in realtà da come si fa all'estero, almeno in alcuni esempi, perché così poi riusciamo a vedere se c'è qualche cosa da copiare, correggere, oppure niente, tenerci quello che è. Dunque, sì, anche perché il raffronto con le cose italiane viene immediato. Un primo elemento che desidero sottolineare è che in Italia abbiamo una cosa che non hanno molti parlamenti, non dico tutti, ma molti, e cioè il cosiddetto gruppo misto. Mm. Allora, in altri parlamenti chi non fa parte di alcun gruppo perché è buttato fuori o perché va via, ora non parlo del cambio da un gruppo a un altro o della costituzione di un nuovo gruppo, parlo di quello che appunto va via, non ha alcuna risorsa. e questo non ha alcuna risorsa che in Italia viene invece comunque attribuita al gruppo misto, nel quale addirittura, fatale errore a mio avviso degli anni 80-90, si è permesso di costituire delle componenti, cioè dei sottogruppini in cui 3 o 4 o 5 persone si possono mettere insieme e ripartirsi le, diciamo, i quattrini. Questo significa, ecco appunto, spieghiamo che a chi a casa non ha esperienza, che partecipare a un gruppo significa naturalmente partecipare all'attribuzione di risorse del bilancio parlamentare che vanno ai gruppi, alle attribuzioni di personale dipendente, di segreteria, eccetera, eccetera. Negli altri parlamenti, molti altri parlamenti, non c'è il gruppo misto. Ce l'hanno, quindi questo è già un disincentivo, perché se io rischio, sai, ci penso due volte. Mm. Secondo punto, alcuni ordinamenti hanno quanto tu hai già citato, il cosiddetto recall, cioè la possibilità su iniziativa popolare di una revoca del mandato su base di un referendum. Mm. Sono però molto pochi, sì. Prevalentemente sono diversi stati americani, sì, l'Australia, l'hanno introdotto, molto interessante secondo me, in Inghilterra pochi mesi fa, prima delle ultimissime elezioni che hanno dato l'inaspettata vittoria a Cameron. Però devo dire, deludendo forse te e gli ascoltatori, che lo prevedono solo in caso di imputazione di qualche reato, ovvero di qualche magagna nel mondo di fondi, e una sorta di sanzione popolare che non ha a che vedere con gli aspetti politici. Naturalmente, è l'Inghilterra, che non è più bipartitica, ma comunque ha un numero controllato di partiti, l'idea di cambio di casacca, nel senso all'italiana, è del tutto inimmaginabile. Allora, ti fermo un secondo qua, questa seconda indicazione che viene dagli altri ordinamenti, perché ci diamo un minuto per l'informazione stradale, poi torniamo col professor Fusaro e le vostre telefonate. La versione di Oscar. Eccoci, tornati in diretta a 16:48 primi. Stiamo parlando del record 2015, comunque di questa legislatura, dei cambi di casacca da parte dei parlamentari. Ben 264 di loro hanno fatto 325 migrazioni in diversi gruppi tra Camera e Senato. E con noi il professor Carlo Fusaro, che insegna diritto elettorale e parlamentare all'Università di Firenze. Ci ha spiegato che in realtà qualche precedente c'è, ma comunque quando ci sono situazioni politiche di grandi scelte o di grandi rotture, il fenomeno diventa più grave. Certo, mai grave come adesso. C'è un fenomeno patologico che riguarda chi viene eletto per sostenere una certa coalizione e va in un'altra coalizione. Ha elencato le quattro grandi dispersioni di famiglie politiche dopo i voti espressi dagli italiani alle ultime elezioni. Stavamo vedendo un po' all'estero come funziona. In moltissimi parlamenti il gruppo misto non si può fare, e tra l'altro molti di voi hanno mandato messaggi, vi vedo preparati, devo dire la verità, e rendo merito ai tantissimi messaggi che, sorprendendomi, ma è colpa mia, hanno detto: qui c'è innanzitutto un problema sulla disciplina dei gruppi. Molti di voi dicono: basterebbe per restringere il fenomeno che ai gruppi restassero le stesse risorse, anche se non è parlamentare, per tutta la legislatura, e i parlamentari che cambiano gruppo si vedessero invece privati a quel punto della possibilità di avere i servizi dei gruppi. Esattamente il problema del gruppo misto. Devo dire che molti di voi mi hanno colpito. Altri ci hanno detto invece in un sistema che ci ha scelti, per così dire, con capilista bloccati, in quel caso diventa tutto più complicato se non si mettono vincoli alla libertà del mandato parlamentare. Quindi una buona domanda poi per il professor Fusaro. Dopo Carlo Fusaro, dopo i due esempi che hai fatto, qualche altro esempio da cui trarre ispirazione? Certamente, per esempio, è molto interessante e divertente, anche se lontano, la Nuova Zelanda negli anni 90 si è fatta venire l'idea, a mio avviso pessima, ma comunque, di introdurre la proporzionale. A questo punto sono stati coerenti. È il paese dal quale a un certo punto Silvio Berlusconi, o qualcuno che lo consigliò, copiò l'idea che votano solo i capogruppi, perché in parte per molti anni è stato proprio così, cioè in altro modo, cioè votano i capigruppo, e se uno è in dissenso deve dirlo, perché se no basta che votino i capigruppo. Coerentemente hanno previsto per un decennio la decadenza in caso di cambio di gruppo parlamentare. Devo anche dire che questa legge proprio quest'anno l'hanno abolita, e naturalmente non conosco se la Nuova Zelanda sia abbastanza stabilizzata per cui non è più necessario, oppure abbiano cambiato idea. Il Portogallo ha qualcosa di simile, ma l'ha previsto anche in Costituzione. E però è previsto la sanzione della decadenza se ti iscrivi a un altro partito. Però puoi cambiare gruppo senza iscriverti. Esci dal tuo. Comunque è un sistema. Ma devo dire che anche da noi, e anche mantenendo l'articolo 67 della Costituzione, almeno se interpretato ragionevolmente, delle cose si possono fare, tipo? Per esempio, mutuando l'esempio spagnolo o tedesco. Allora, Spagna e Germania, su forma di governo, sono assai simili, perché la Spagna si è ispirata in larga misura alla Germania. Lì com'è la questione? Intanto c'è un requisito non solo numerico, ecco il punto, alla formazione dei gruppi, ma anche politico. In altre parole, bisogna, primo, che il gruppo sia fondato all'inizio della legislatura, secondo, che il gruppo corrisponda a una lista, coalizione, forza politica che come tale si è presentata. Dopodiché uno può uscire e fare il paria senza gruppo misto, se crede, ma una volta che si è iscritto al suo gruppo non può cambiare gruppo, soprattutto non esatto. Se ne possono formare di nuovi. Questo è il punto. Ma l'interesse di tutto questo, secondo me, è che si può fare una misura di questo tipo, si possono adottare praticamente modificando i regolamenti parlamentari senza bisogno di modificare la Costituzione, senza bisogno. È così? Io penso che ci sarebbe spazio, del resto proposte del genere giacciono in entrambi i rami del Parlamento. Un collega mio che è stato senatore aveva proposto qualcosa del genere, mi riferisco a Stefano Ceccanti. C'è Stefano Ceccanti. Naturalmente non ho avuto grande successo, no. Anche se alcuni gruppi questa proposta anche in questo Parlamento l'hanno rilanciata. Vorrei che però avessimo la consapevolezza che si fa anche di peggio per certi aspetti dal mio punto di vista. Cioè? Perché non solo nelle due Camere italiane esiste solo il requisito numerico, per cui qualsiasi accolzaglia può diventare gruppo, anche certo. In corso di legislatura un nuovo gruppo, ma ci sono le autorizzazioni a costituire il gruppo in deroga. Sì, sì. Con tutto il rispetto, per esempio, il gruppo Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, ha un suo gruppo parlamentare, ma sono in nove. Ma alla Camera, perché tutto diventa decisione politica, e con i precedenti come fai a negarlo a X se prima l'hai adottato a Y? Ecco, io sono completamente d'accordo con queste modifiche dei regolamenti illustrate da Carlo Fusaro. Naturalmente, come potete immaginare, i parlamentari si preferiscono le mani libere, però o dal basso viene una forma di, come devo dire, sanzione sulla reputazione di questi parlamentari, oppure non ci si muoverà mai in questa direzione, mai. Sentiamo come la pensano un po' di voi. Patrizio, dalla provincia di Salerno. Buonasera professor Giannino. Buonasera. No, Giannino e basta, ci mancherebbe, dica. No, per me lei resta professore. Dai Patrizio. Come spiega... Ok, ecco. Io ho colto bene, anche perché vedo lei ha spiegato benissimo il concetto e alcune posizioni del dramma che stiamo vivendo a livello istituzionale. Sì. Però onestamente le dico, quello che mi preoccupa non è tanto lo scandalo di 300 parlamentari che saltano da un posto all'altro. Mi preoccupa un'altra cosa. Io non vado più a votare basandomi su una leva fatta di onestà o di appartenenza ideologica o di morale ed etica. L'unica cosa che mi era rimasta era la questione programmatica, nel senso che mi affidavo ovviamente alla scelta del bianco o del nero, e neanche del grigio. Ripeto, non ce lo permettono, non possiamo scegliere, non possiamo conoscerli. Capisco Patrizio, ed è proprio per questo, secondo me, che intanto impedire la formazione di gruppi a go-go servirebbe a limitarlo molto significativamente, questo principio, senza intaccare la libertà del parlamentare. Certo, fuori da un gruppo li voglio vedere poi, però questo significherebbe molto, anche perché, come si capisce, il più di queste poi frane, che le quattro frane che elenca il professor Fusaro, dove sono andate? Sono andate verso la maggioranza e verso Renzi, e come di volta in volta sono andate per costruire la cosiddetta governabilità intorno a coalizioni che non avevano i voti o li avevano molto periclitanti. E questa è la storia delle migrazioni parlamentari trasformistiche italiane. Riccardo D'Alessandria, come la pensa? Buonasera Giannino. Allora, volevo dire, io sono d'accordissimo con lei, bisognerebbe evitare, da ciò ben capito, cioè cambiare quella norma della Costituzione, perché conoscendo gli italiani bisogna dargli, gli italiani bisogna mettere su un binario dove non possono sgarrare più di tanto. Se si cambiasse, lei cosa proporrebbe? Di rifare le elezioni o di far subentrare il secondo dei non eletti lo stesso partito? Sì, quello lì. Ecco, io sono concreto, credo che la Costituzione, i parlamentari non l'accetterebbero mai, credo che la via intanto immediata possibile sarebbe quella di una riforma dei regolamenti parlamentari, che come sa non ha il doppio voto parlamentare coi 6 mesi e così via, e una maggioranza tale per cui altrimenti serve il referendum confermativo. Però intanto i regolamenti mi convincerebbero da subito, perché secondo me quella è una patologia che ha a che vedere su come si spendono poi i soldi in Parlamento, e se ne spendono ancora tanti, virgola, troppi, ecco, punto. Sergio, da Trieste come la pensa? Salve, io penso che il problema è cosa vogliamo dai nostri parlamentari. Giusto. Se vogliamo che siano dei soldatini che votino sempre come vuole il governo, allora il problema è come eleggerli, che non cambino casacca. Se invece vogliamo una governabilità, dovremmo andare verso un sistema americano, che è l'unico che ci permette di avere una governabilità e anche degli eletti veramente liberi, perché adesso non sono liberi, o votano in un certo modo, oppure si va a casa, oppure si cade il governo, oppure... Allora noi attualmente con la nostra Costituzione abbiamo bisogno di soldatini. Quindi lei vorrebbe, ci vuole un esecutivo di espressione diretta e a quel punto un Parlamento forte, ma che non abbia il ricatto della governabilità, cioè della fiducia a un governo. E magari, signore mio, magari noi ci dobbiamo accontentare dell'Italicum, sul quale in questi ultimi 45 secondi chiedo un giudizio telegrafico a Carlo Fusaro. Tu sei tra quelli che lo difendono comunque, è così? Sì, lo confesso, lo difendo. Rispetto molto l'opinione sia di Giannino, che conosco, sia dell'ascoltatore di Trieste, ma non credo che il modello americano sia da garantire particolare governabilità. Questo lo capisco, proprio per la ragione che ha ma detto, i 100 lui. Capilista bloccati, quello sarà a di nuovo va, però ecco, voglio dire questo, in tutta questa discussione quell'ascoltatore all'inizio della telefonata aveva colto un punto cruciale che avrei sollevato io, infine. Sì. Cioè dobbiamo metterci d'accordo, perché se noi riteniamo, e io sono d'accordo con questo, non morale o non sano per la democrazia il cambio di casacca, allora bisogna anche capire che non possiamo però al tempo stesso piagnucolare contro la partitocrazia. Esatto. No, questo è l'altro corno del problema, per così dire. Comunque, problema serio, mancano i rimedi, ma comunque bisogna riflettere e dal basso protestare, secondo me. Grazie a Carlo Fusaro, continuate con la 24, appuntamento all'8:15 domani con Attenti a Noi Due.